una filiera distributiva diretta che potevano controllare. In questo senso ci siamo un po' arenati sul fashion. Devo dire che lavorando nel settore ormai da 15 anni mi sembra di vedere un interesse nuovo, un po' più strategico. Mi piace pensare al nuovo rinascimento del licensing italiano, che comunque dà anche spazio al pensiero prima dell'azione. Di nuovo in studio con Essere Avere per il focus sui trend di questa puntata. Facciamo il punto sul fenomeno commerciale del momento, il social shopping, considerato una vera e propria rivoluzione nel modo di fare acquisti online. Ne parliamo come sempre con la nostra esperta Patrizia Martello di Memetic Club, docente di sociologia dei consumi, analisi delle tendenze alla nuova Accademia di Belle Arti NABA di Milano. Patrizia, ben ritrovata. Grazie, buongiorno a tutti. I social network, lo abbiamo detto più volte, stanno rivoluzionando non solo le dinamiche sociali ma anche quelle professionali e nel mondo dei consumi, la pubblicità, il marketing e appunto gli acquisti. Parliamo degli acquisti collettivi online su siti come Groupon, Groupalia, Glamuto, Hangon, Jumpin, che negli ultimi mesi hanno preso piede anche in Italia. Un sistema di acquisto, quello del social shopping, che, questa la promessa, diventerà a breve anche un sistema di pagamento. Patrizia. Il social shopping nasce appunto dall'incontro tra e-commerce, cioè acquisti e vendite online, e i social network. Come funziona? L'utente potenziale consumatore segnala la sua preferenza di un prodotto, fa un like per esempio su un social network, su Facebook, e condivide questa preferenza con la sua comunità di riferimento, con il suo gruppo di amici, dunque fa promozione. E con diverse modalità questo passaparola generato dagli utenti o dai fan, che ormai ha un valore riconosciuto da aziende e da brand, viene redistribuito attraverso bonus d'acquisto, percentuali sulle vendite o con i classici punti sulle carte fedeltà. Comprare insieme ad altri conosciuti o sconosciuti, è questa la formula di social shopping dei gruppi di acquisto. Oltre a quelli che già citavi, da segnalare Google Offers, pare che sia in fase di lancio da Google proprio dopo i ripetuti rifiuti di acquisizione da parte di Groupon. Questi gruppi d'acquisto vendono appunto coupon, sconti di prodotti e servizi, rendendoli molto convenienti. L'affare scatta al raggiungimento del numero minimo di persone che lo acquistano. Altra versione, comprare insieme agli amici, Buy with Friends, è il nuovo gruppo di acquisto per ora virtuale di Facebook. Compro un prodotto, lo segnalo alla mia rete via newsfeed, gli amici possono comprare lo stesso articolo con uno sconto e in questo caso il passaparola e l'influenza, che nasce proprio dalla condivisione dell'acquisto fatto, gioca un ruolo decisivo sulla motivazione e relativa decisione d'acquisto di prodotti e servizi anche offline da parte degli amici con cui l'ho condiviso. Acquisti offline che diventano essi stessi condivisibili in tempo reale su Facebook direttamente dal punto di vendita. Le decisioni d'acquisto non sono sempre immediate, cioè il click definitivo può essere differito. Questo è il caso di Twenga, portale di comparazione dei prezzi, che trasforma il motto "il migliore consiglio è quello degli amici" in un nuovo servizio per gli utenti chiamato appunto "chiedi consiglio", e così, pur avendo già deciso l'acquisto prima di comprare, si può interpellare la community per saperne di più su ciò che si vuole acquistare, per chiedere pareri, quindi avere recensioni, per capire se qualcuno è disposto a farci un regalo, eccetera. Social shopping anche nella versione on the go. PepsiCo ha lanciato e presentato la Social Vending Machine, un distributore automatico di bibite con tutti i suoi marchi, con touchscreen e connessione, così da poter regalare una Pepsi Cola o altra bibita a un amico con videomessaggio allegato. Allora, sul touchscreen compare una tastiera, si inseriscono i dati della persona a cui inviare il regalo, autorizzati, che riceve il videomessaggio e un codice, e andando alla social vending machine di PepsiCo più vicina potrà avere la bibita e a sua volta, se vuole, rispedirne un'altra al mittente. Leader del settore, 70 milioni di utenti in 44 paesi nel mondo, Groupon. Presente in America dal 2008, in 15 mesi ha raggiunto i 5 milioni di utenti anche in Italia, dove è presente in 25 città. Ha fatto notizia per il rifiuto dell'offerta da 6 miliardi di dollari firmata a Google. Ora è prossimo allo sbarco in borsa con una supervalutazione di 20 miliardi di dollari. Negli Stati Uniti ha appena lanciato Groupon Now, un'applicazione che promette di rivoluzionare ulteriormente il settore. Ne parliamo con Giulio Mario Limongelli, amministratore delegato Groupon Italia, il nostro ospite di oggi. Benvenuto. Buongiorno a voi. Partiamo subito da Groupon Now. Possiamo brevemente spiegare ai nostri ascoltatori di che cosa si tratta? Assolutamente sì. Groupon Now è un prodotto che è stato lanciato negli Stati Uniti a partire dalla città di Chicago, che consente fondamentalmente di comprare offerte all'istante, o instant deal o flash deal. Sostanzialmente l'utente ha voglia di andare a mangiare stasera un hamburger, va su Groupon, digita il suo codice postale e trova l'offerta che fa per sé, per mangiare un hamburger o per andare a fare yoga o per una serata di drink con gli amici. Arriverà anche in Italia? Purtroppo non posso fare commenti in relazione al prodotto, è una cosa che hanno lanciato negli Stati Uniti e in Europa e in Italia non sappiamo ancora cosa faremo e quando lo faremo. Groupon, dati alla mano, è la società che ha registrato la crescita più veloce di tutti i tempi. Quali sono gli ingredienti di questo successo? Quello che io dico sempre quando mi chiedono gli ingredienti del successo, io credo sia la semplicità dell'utilizzo del nostro servizio. In due semplici click si arriva sul sito e si comprano delle offerte particolarmente vantaggiose e molto interessanti. Perché in realtà poi, come dire, l'ingrediente fondamentale è vecchio quanto il commercio, gli sconti, i coupon, i buoni acquisto. Fondamentalmente io credo che ricordi un po', io mi ricordo mia mamma arrivava a casa un catalogo, ora non mi ricordo di preciso qual era il nome, con gli sconti per andare, non so, dal parrucchiere o dal panettiere, quello che era, ad un prezzo appunto scontato. E poi, ricordiamolo magari agli ascoltatori che non conoscono Groupon, la filosofia glocal, nel senso che le offerte sono declinate sul territorio, è così? Assolutamente sì. Come citava lei prima nella nostra introduzione, siamo attivi in 25 città e la caratteristica appunto di avere delle offerte geolocalizzate, quindi sul territorio. Quindi in ogni singola città vengono proposte delle offerte per la singola città. Grazie a Giulio Mario Limongelli per essere stato con noi. Grazie a voi, buona giornata. Patrizia, questo servizio ne è una prova. Le potenzialità del social shopping sono grandissime, infinite praticamente. Sì, è un altro caso proprio significativo di queste potenzialità che si generano proprio dall'interazione tra social network e offerta, è quello di KLM. Parliamo di viaggi e turismo e di crowd buying, cioè acquisto di massa. KLM, compagnia aerea olandese, ha aggiunto un volo extra sulla tratta Amsterdam-Miami, accettando la richiesta via Twitter di un gruppo di 351 persone che, volendo partecipare all'Ultra Music Festival di Miami, appunto, garantivano il tutto pieno sul volo richiesto per il 21 marzo scorso e prenotato entro il 6 dicembre scorso. La dinamica e i tempi sono l'aspetto interessante di questo caso. Un regista danese lancia l'idea su Twitter, nelle 5 ore successive raccoglie le 351 prenotazioni, rilancia l'idea a KLM che immediatamente si ritrova un intero volo che non c'è, già prenotato, quindi non le resta che programmarlo. È il primo caso di un vettore che vende un volo on demand via Twitter. Nel mondo moda, social shopping può significare shopping democratico alla portata di tutti, secondo una nuova equazione: più ti piace, meno ti costa. Il brand è Terranova, in occasione dell'apertura dello store online, ha lanciato sulla sua pagina Facebook, si chiama Terranova World, una campagna ideata da Ninja Lab e diffusa da Viral Beat, basata proprio sul principio più fan fanno like, meno costano i capi, che sempre diversi quotidianamente vengono proposti su questa pagina. Per ogni click sul mi piace il prezzo del capo selezionato scende di 5 centesimi, potenzialmente fino a zero, ed è acquistabile dal giorno successivo con la didascalia: questo capo è piaciuto per esempio a 115 persone e adesso costa 5 euro, acquistalo ora. I capi vanno esauriti in pochi minuti da quando è partita la campagna e sono 81.000 i like sulla fanpage. Social shopping e customizzazione. Parliamo di regali personalizzati in base ai profili Facebook. E questo è il nuovo servizio di Etsy, che ricordiamo è il sito di e-commerce in cui gli ormai 5 milioni di iscritti vendono prodotti di alto artigianato o vintage. Bene, il nuovo servizio si chiama Gift Ideas for Facebook Friends, un motore di ricerca interno al sito che incrocia i dati dei profili di Facebook delle persone che noi segnaliamo, autorizzando Etsy a raccoglierli, e a cui vogliamo fare un regalo con tutti gli oggetti in vendita, quindi regalo azzeccato, personalizzato per l'amico prescelto e quella che si chiama branded utility, cioè una funzione social brandizzata.